Convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Possiamo cominciare! Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io. No, tu no! Per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto! È scappato il leone. E vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io! No, tu no! Potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, o magari no, si potrebbe andare tutti quanti al mondiale, almeno dal 2026, notizie di questa mattina, ve l'abbiamo già data nei nostri GR, l'allargamento che la FIFA ha deciso, su spinta del nuovo presidente Infantino, mondiale a 48 squadre, non nel 2018 in Russia, non nel 2022 in Qatar, ma a partire dall'edizione 2022-2026, quella che si giocherà probabilmente in Nord America, forse negli Stati Uniti, in Canada, in Messico. Poi si vedrà 48 squadre, 16 gironi da 3, passano le prime due, poi la fase eliminazione diretta, poi i dettagli li scopriremo nei prossimi minuti perché Infantino sta per fare una conferenza stampa a Zurigo dove spiegherà ad esempio se saranno aboliti i tempi supplementari, se verranno tirati i rigori dopo il novantesimo. E tante altre novità, tutto in nome del dio denaro, perché il mondiale a 48 squadre, dicono alcuni studi, porterà nelle casse della FIFA da 600 milioni a un miliardo in più. C'è chi è contrario, come la Liga Spagnola che è pronta a portare la FIFA in tribunale, oppure l'ECA, i maggiori club europei che hanno pubblicato un documento per dirsi contrari. C'è chi è favorevole, come Maradona, che dice finalmente sarà anche il mondiale dei poveri. Io vorrei sapere cosa ne pensate voi. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta vi prenotate 800 24 00 24, oppure 349 238 6666 per i vostri sms e i vostri whatsapp. Quanti stadi servono? Ne servono tanti, eh? Alla fine saranno 80 le partite e anche il mondiale, così come le Olimpiadi, diventerà sempre più gigante. Qualche altro tema di giornata. Oggi ricomincia la Coppa Italia con Napoli-Spezia, Coppa Italia per pochi intimi negli stadi, ma che tira in televisione, però ci sarà tempo per parlarne. Domani c'è Juventus-Atalanta, oggi ha parlato Allegri, che è uno dei personaggi del momento, è tornato sul mercato della Juventus. Poi c'è anche un giallo di cui parleremo, però sentite che cosa ha detto oggi Allegri. No, non avevo assolutamente chiesto niente, non mi aspetto niente perché, ripeto, alla Juventus bisogna prendere i giocatori per migliorare la qualità tecnica della squadra. Se c'è la possibilità di prenderli, la società, come ha sempre fatto in questi anni, li prende. Altrimenti è meglio rimanere con questi che abbiamo, che sono molto bravi. È inutile fare numero. Numero tra tanti giocatori non servono, soprattutto se hai dei giocatori che dopo alla fine non ti migliorano la qualità. Preferisco portare su due ragazzi della primavera che ci sono bravi e incominciarli a metterli vicino alla prima squadra, cominciarli a farli lavorare per magari poi durante l'anno possano trovare un pochino di spazio. Scrive un amico: evviva il mondiale a 48 squadre, fascino delle sfide tra piccole e grandi, fantasia, folklore. Sì, ripeto, però è soprattutto una questione di soldi, però aspetto il vostro parere. Oh, fa un po' effetto sentire Allegri dire che preferisce portare qualche giovane della primavera in prima squadra piuttosto che fare richieste di mercato, visto che risulta che la Juve perderà quasi certamente Evra, che avrebbe preso volentieri Witzel, che invece è andato in Cina, e quindi qualcosa c'è, qualche buco, almeno in prospettiva Champions League. Altro tema di giornata. Ieri sera noi italiani ci siamo riempiti d'orgoglio, ancora una volta per Ranieri. Un onore per me far parte dei primi tre e aver vinto, naturalmente è un gran raggiungimento della mia carriera. Ho iniziato, dico chissà se potrò fare questo lavoro, perché essere giocatore è una cosa, essere allenatore è tutt'altro mestiere. E beh, devo dire che sono riuscito, questo è importante, questa è una nuova spinta, una nuova energia che darò sicuramente ai miei giocatori. Questo Ranieri, che ieri è stato premiato dalla FIFA come miglior tecnico del 2016, i premi lasciano sempre un po' il tempo che trovano, però mai come questa volta il premio di Ranieri e anche quello di Cristiano Ronaldo sono meritati. Ronaldo che ha fatto il bis dopo E dopo essersi preso anche il pallone d'oro, scrive un amico: va bene il mondiale a 48 perché almeno le qualificazioni saranno inutili e quindi le soste saranno finite? No, perché le qualificazioni ci saranno ancora, le soste pure. E come sapete, ad esempio, l'UEFA dal 2018 si è inventata un altro torneo che occuperà il posto delle amichevoli e che quindi renderà i calendari ancora più ingolfati. Secondo me una follia, soprattutto se poi si chiede ai campionati e ai club che i giocatori li pagano di fare la dieta. 800 24 00 24. Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia. Torniamo dopo il traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. "48 squadre sono tante e ci adatteremo, vedremo come verrà strutturato, vedremo i tempi per poter iniziare a lavorare. È normale, da allenatore 48 sono tante, magari se fossi CT della nazionale direi che va bene. Il calcio sta cambiando, si sta globalizzando, ripeto, è venuto fuori dalla Cina, è venuto fuori dalla Russia, verrà fuori tra qualche anno magari altre nazioni. Stanno cambiando, stanno cercando delle formule per cercare di aumentare sicuramente anche l'introito. Il calcio sta diventando business e show. Il calcio sta diventando business e show, questo Allegri. Oggi sul mondiale a 48 squadre, 800 24 00 24, c'è chi propone di allargarlo a 200. Addirittura Demetrio Albertini, ciao. Ciao, ciao a tutti. Reduce proprio da Zurigo, poi ne parliamo perché ti ho visto in splendida forma ieri. Oggi sulla Gazzetta dello Sport dicono che Albertini non ha su un filo di grasso, è vero? Non ha visto la partita. Chi ha scritto? Sono un ex calciatore. Ah. Infatti sono rimasto stupito anch'io. Ah sì? Però mi sono divertito tanto. Ah. Però hai sbagliato anche un calcio di rigore. No, ma ne parliamo dopo. Adesso dimmi se ti piace il mondiale a 48. Personalmente sì, nel senso che dà un'opportunità a quelle federazioni, a quelle squadre magari che hanno dei buoni giocatori ma magari non 11, di poter partecipare, quindi non perdere i grossi giocatori che possono fare il mondiale. Un'esperienza meravigliosa, è una cosa, è in più un fatto sociale, perché sennò è vero che business, lo sentivo prima Max Allegri che ha detto che sta diventando un business, e lo sta diventando, ma lo è già da un po' di tempo. E quindi personalmente ne avevamo già discusso in Messico qualche mese fa col presidente Infantino, personalmente mi trovo abbastanza d'accordo. Sì, anche se poi dietro ci sono questioni politiche, certamente Infantino allarga la sua base elettorale, ci sono questioni economiche, le abbiamo citate, ci sono un paio di studi, dai 600 milioni di euro al miliardo di euro in più allargare il mondiale, e secondo me hanno ragione anche i club quando si lamentano, chiedono ai club la dieta, chiedono di tagliare i calendari, chiedono di rinunciare a partite, di non andare a fare le tournée, e poi FIFA e UEFA continuano a inserire delle manifestazioni o ad allargare quelle che ci sono. Ma se ne sta parlando da diverso tempo, io ne faccio più che altro un fatto puramente sociale. Abbiamo visto anche all'europeo delle squadre che in altre occasioni non hanno mai partecipato invece giocare un grande europeo, vediamo il Galles con un grande campione come Bailey, e in altre occasioni magari non ha potuto partecipare perché magari non aveva una squadra forte. È vero che si fanno qualche partita in più, ma dovrebbe essere una partita in più. No, in realtà chi arriva in fondo 7 dovrebbe farne sempre, poi ripeto, i dettagli li vedremo. Però i dettagli ci sono, quindi non è una questione di partecipazione sia per i giocatori e soprattutto per i tifosi, quello che possono essere partecipi. È vero che si allarga magari degli introiti sui diritti televisivi, ma ci sarà anche dei soldi da spendere per ospitare ancora di più, per ospitare più squadre. Sì, c'è chi ci chiede quante saranno le europee, vediamo, ripeto, stiamo aspettando la conferenza stampa di Infantino. Questo diventa una cosa un po' più politica. Dovrebbero essere 16 contro le 13 attuali, perché ma è stato detto, poi vediamo qual è stato l'accordo finale. L'allargamento non è per far entrare più europee, ma per far entrare più piccole, e quindi vedremo più africane, più sudamericane, più nordamericane. Secondo me ci sarà anche qualche europea in più. Una fissa dell'Oceania, dovrebbero essere 16 contro le 13 attuali. Oh, mi fate sentire l'audio invece della grande partita di ieri a Zurigo. Allora, questo è l'audio che ho preso direttamente dal profilo Twitter di Demetrio Albertini, e ci racconti tu di che cosa si tratta. Oggi ripeto, c'è una paginata intera, l'ho vista. Allora, prima di tutto devo dire che diceva Francesco Toldo che non so come farà a raccontare ai suoi figli che ha giocato insieme al presidente della FIFA nella squadra con Maradona e Battistuta, e le ha perse tutte e tre le partite, quindi non so, è vero che ha parato il rigore, ma non so come lo racconterà. Sì. No, ma come gioca Infantino? Bene? Faceva freddo, non... però devo dire, cerca di muoversi. Poi, come ho detto, aveva una squadra e le ha perse tutte quella squadra lì. Però sì, sa giocare. Poi dopo, se metti di fianco altri giocatori che magari hanno giocato da professionista, diventa poi difficile il paragone. Sì, la differenza si vede. No, però senza girarci troppo intorno. Il presidente dell'UEFA mi ha stupito. Bravo, sì, mi ha stupito. Infatti poi cintura nera di karate. Era in squadra con me, sì. era dialogava molto bene con Svone, quindi... Invece Toldone si è confermato pararigori, dai. Sì, l'abbiamo fatto rivivere un po' l'atmosfera dell'Europa del 2000 contro l'Olanda, quindi ne parlo così tanti, quindi abbiamo fatto ripetere quello. Sì, Francesco è un amico, poi abbiamo fatto le giovanili anche insieme nel Milan, quindi siamo proprio legati. Senti un po', tema di giornata, Ranieri che ieri si è preso il premio di miglior tecnica del mondo per il 2016, oggi tanti scrivono sui giornali, è la conferma che i nostri sono i migliori. Secondo me è anche la conferma che ha fatto un miracolo, forse irripetibile. È bello sentirsi essere nazionalisti in queste occasioni, questo mi fa piacere assolutamente. Io direi che prima di tutto il merito va a lui, che ha fatto delle esperienze anche all'estero importanti, è cresciuto tanto in Italia perché ha fatto bene, io mi ricordo molto bene con la Roma, ma anche altre squadre, Cagliari e altre, e alla fine se l'è meritato. Poi dopo, come ho detto, è bello essere nazionalista, ha fatto un miracolo, più che un miracolo, questo è lo sport, ce le dà la possibilità di realizzare dei miracoli, ha fatto un gran lavoro perché doveva avere una continuità con una squadra che veramente forse pensava solo che potesse salvarsi. Sì, noi l'abbiamo un po' sottovalutato, dai, l'abbiamo un po' trattato male Ranieri. È quello che ho detto prima, dopo diventiamo sempre nazionalisti. Intanto che la vincono, porta che hai sentito sbattere è di Pierluigi Pardo, è un altro che non ha su un filo di grasso, come te. Ancora, è un assillo, anche ieri in diretta. Ah, Demetrio, allora ti considero già per lunedì prossimo, Ho fatto vedere la tua foto con la signorina Longoria, com'è andata? È andata benissimo, la serata è andata bene, è andato meglio la partita, che era la cosa più divertente, sì, la mattina. Ci siamo ritrovati tanti amici e poi è stato un bel premio, con il dispiacere che quelli del Barcellona non abbiano partecipato. Sì. Non hanno fatto una bellissima figura. Avete già parlato del Mondiale a 48? Ma qualcosina, tu che pensi? Beh, io penso che siano soldi, come direbbe Maccio Capatonda, no? Demetrio è favorevole, Allegri è abbastanza favorevole, io sono un po' scettico e disilluso. Allora, io ho un problema, che a me più si gioca a pallone e più sono felice, e mi rendo conto che però esiste un rischio di usura, no? Un rischio di eccesso di offerta. E, onestamente, un mondiale con 80 partite è lungo, complesso, non mi fa impazzire, così come a me francamente piaceva moltissimo l'Europeo a 16, perché c'era un livello di equilibrio incredibile, mi piaceva di più. Anche se quello a 24 non è andato male. Sì, però nell'ultima giornata c'era chi poteva fare qualche calcolo degli ultimi gironi, ma non è questo. Beh, ma i calcoli, detto questo, i calcoli poi li hanno fatti con quante partite forma ci saranno in più? La ventina? Ecco, il bambino che c'è in me sarà più felice da questo punto di vista. Credo che la motivazione sia di natura economica, è inutile fare i moralisti o i passatisti. È chiaro che il calcio è un grande business e non c'è in fondo neanche niente di male. Se io fossi mai un giorno un presidente di un di un'associazione, è chiaro che mi comporterei per massimizzare il ricavo, no? Non è una vergogna. Il problema del mondo non sono i ricchi, ma sono i poveri, secondo me, che ce ne sono troppi, purtroppo. Quindi lo capisco come ragionamento. Il rischio che a un certo punto poi si esageri, beh, insomma, secondo me bisogna porselo, perché poi comunque 80 partite non saranno mai 80 finali, no? Quindi è ovvio che ne fai di più, però rischi di annacquare un po' la formula. Demetrio? Ma io la vedo più come un'azione un po' politica, più che certo, economica, nel senso di allargare l'opportunità di avere, certo, più squadre, quindi più club, più presidenti, ma come ho detto, io invece rimango dell'idea che, essendo sì un business, un grande business, ma è anche un valore sociale il calcio, e poter avere nel luogo dove si gioca il mondiale anche qualche tifoso che magari non avrebbe mai potuto partecipare a questa manifestazione, a me fa piacere tanto. Guarda, scrive un amico: Donato di Ravenna, sarà come gli europei, si allargherà la forbice tra piccole e grandi. Vorrei un mondiale a 16 squadre come Pardo. No, io non vorrei un mondiale a 16 squadre. Io vorrei un europeo, cioè l'europeo a 16 l'europeo squadre mi faceva impazzire. Però perché in questo europeo abbiamo visto il Galles in semifinale, sì, l'Islanda che comunque è andata avanti finché non si è schiantata sulla Francia. Non è vero che si è allargata. Ma poi alla la fine formice. Mi prendi sempre nel mio lato fanciullesco, che alla fine più si gioca e più sono felice. Quindi mi rendo conto che mi contraddico da solo. L'aspetto politico è importantissimo. Io ho avuto la fortuna di essere inviato al mondiale del 2010. E credo che quel mondiale lì abbia avuto un valore. Poi magari in Italia non ce ne siamo accorti tanto, ma per gli africani, e non soltanto per i sudafricani, per tutti gli abitanti di quel continente ha avuto un valore. Io mi ricordo di quel mondiale, ho 5-6 istantanee che mi commuovo solo a pensarci. Cioè, veramente di un pezzo di mondo che probabilmente 20 anni fa o 30 anni fa, al di là del complesso dell'apartheid, che ovviamente è un problema ulteriore di quel paese lì, ma che non pensava di poter essere ammesso a organizzare un evento del genere, e che si è sentito veramente per la prima volta forse in prima fila del mondo, e questo è un grande valore. Quindi poi alla fine ci sono queste valutazioni, poi ci sono anche i 350 milioni di dollari in più che vengono, sì, 400, previsti, 500, ma ripeto, 600, poi vedremo quanti saranno. Il denaro non è che sia per forza il demonio, è ovvio che chi si occupa di politica sportiva deve pensare anche a massimizzare gli utili. L'importante è che il calcio capisca che gli utili passano anche attraverso la tradizione, cioè attraverso un mix fra il fatto di giocare tanto, di moltiplicare la fruizione del prodotto, ma di non disperdere l'aspetto tradizionale, che è importante, perché poi la finale di Champions è una, deve essere una. No, è vero per Luigi, però stiamo parlando del mondiale, stiamo parlando di nazionali, stiamo parlando di rappresentanti di paesi, la nazionale è sempre considerata così, non stiamo parlando di club privati, quindi credo che l'aspetto sociale vada evidenziato, no? Anche nella parte business, che sicuramente c'è, però la possibilità di vedere tanti tifosi di alcuni paesi partecipare a una manifestazione così importante, personalmente mi fa piacere. Cioè, tu stai con Maradona e con Eto'o, quelli che hanno detto che questo sarà il mondiale dei poveri dal 2026. Grazie Demetrio, abbiamo grazie la borsa. A voi. Ciao, ciao, ciao, ciao. Grazie, buon ritorno. C'è la borsa 800 24 00 24. Tutti convocati. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Tutti fanno pronostici, non tutti nel posto giusto. Scommetti nelle agenzie SNAI o su SNAI.it. SNAI, the Playmakers. convocati. Mauro da Roma, Mauro. Buongiorno a tutti. Eccoci. Ascoltavo la questione del mondiale a 48 squadre. Sì. Io sinceramente la ritengo un po' un suicidio del proprio della manifestazione. Non ha senso portare 48 squadre di cui non avremo nessuna memoria, non so, per me si rischia veramente di compromettere la manifestazione. Ma forse io ho qualche pregiudizio, ma ricordo i mondiali a 16, a 24, dove anche per la squadra africana povera era una festa arrivare, era un premio. Sì, però adesso quello era un calcio pittoresco, folcloristico. Adesso ci sono interi continenti che sono cresciuti. La verità è che il calcio è più forte di tutto. Quindi io non sono d'accordo con l'ascoltatore quando dice si rischia? Si rischia che non lo seguiremo? Che non vedremo le partite? Che non ci appassioneremo? Io sono d'accordo con lei, a me 48 non mi fa impazzire, 32 secondo me è più che sufficiente. Però poi alla fine, quando saremo lì, saremo gasati esattamente come prima e probabilmente vedremo più partite, quindi avrà ragione chi avrà scelto questo tipo di formula. Anch'io sono per 32, a me non piace l'allargamento a 48, ma non credo, cioè il calcio ha le spalle larghe secondo me ed è troppo più forte. Una volta si diceva il calcio, no, qualcuno diceva no, ma il calcio non lo guarderà più nessuno quando avremo tutte le partite tutte le sere. Il calcio lo guardano tutti, quelle partite tutte le sere, anzi sono un valore. E il problema che abbiamo in Italia, che è il problema degli stadi vuoti, non è dovuto a quello, perché in Inghilterra la gente ci va allo stadio, in Spagna ci va allo stadio, in Germania ci va allo stadio, non sono le televisioni o lo spezzatino. Il problema è che abbiamo gli stadi spesso ridicoli, scomodi, senza la tettoia per coprirsi quando piove, e quindi la gente magari non ci va. E quindi la gente preferisce stare a casa a guardare dei biglietti cari. Poi domani parliamo dell'esperimento dell'Entella, che vende i biglietti un po' come le compagnie aeree low cost vendono i biglietti per salire su un aereo, cioè a seconda di quando prenoti, di qual è la tratta, costa meno il biglietto, a seconda di quando prenoti, qual è la partita e che tempo fa, può costare più o meno il biglietto. Parliamo del grande giallo che mi è stato segnalato oggi da Giorgio De Luca, autore di questa puntata, e che ci riporta tra Doha e domenica sera Juventus-Atalanta. Allegri. A Doha sapevo che Dybala sbagliava il rigore. Oggi non lo sapevo, infatti Doha l'ho guardato, oggi sapevo che faceva gol, mi sono girato. Come lo sapevi? E perché lo sapevi? Questo ve lo dirò a fine campionato. No, come? Sì, adesso che te torni qui allora, Max. Torno lì, a fine campionato torno da voi. Vabbè. Allora, cosa vuol dire? A Doha sapevo che l'avrebbe sbagliato, qui ero sicuro che l'avrebbe segnato, e quindi vuol dire che evidentemente l'avrà visto nervoso, l'avrà visto teso. Allora perché glielo fai tirare? Dice il tifoso medio, quello innanzitutto che perché si prenderà le 80 ce ne sono 5 mondiale da tirare, e ci sono dei rigoristi e non sempre certe cose si possono prevedere prima. Io credo che quello che Allegri ci sta dicendo è che abbia avuto un presentimento negativo prima di quel calcio di rigore, un presentimento, non una certezza, insomma. Conte ha fatto entrare Zaza all'ultimo minuto perché pensava, e stiamo parlando di un allenatore quasi infallibile, bravissimo, come Antonio Conte, l'ha fatto entrare perché pensava che potesse segnare il rigore, l'ha sbagliato. Cioè nella vita si sbagliano delle scelte, delle volte si hanno delle percezioni che poi non si rivelano adeguate. Credo che sia questa la battuta, non ho parlato con Allegri, non sto nella sua testa, ma penso che sia questa la... Però è interessante, è un giallo che ci tireremo fino a maggio-giugno. Saluto Giampiero Timossi, ciao Giampiero. Ciao, buongiorno. Secondo te cosa voleva dire Allegri? Che probabilmente aveva visto davvero il giocatore nel volo, poco concentrato, non credo che avesse poi un significato particolare, però come dici tu è curioso, lo scopriremo solo aspettando le nuove dichiarazioni di Allegri. Perché esiste anche una teoria, una scuola di pensiero, secondo cui dietro la trattativa per il rinnovo del contratto di Dybala con la Juventus ci sono in realtà storie di calciomercato che lo porterebbero lontano da Torino. Io sì, personalmente ci credo poco, però ci sono. Guarda, io vedo dopo ogni partita, dopo le ultime partite, vedo un po' i messaggi, quello che succede, no? sui social, su Twitter, si parla sempre di un Dybala svogliato. Perché così svogliato? Io non credo che sia assolutamente svogliato, ma non avrebbe senso pensare all'idea, portare avanti l'idea che lui pensi già a un'altra destinazione. Quello è il modo di giocare di un ragazzo che ha colpi straordinari, che può permettersi anche delle pause durante la partita, perché poi ha delle invenzioni che pochissimi in questo momento hanno. Ma lo possiamo paragonare a Messi e Ronaldo? A Messi soprattutto, cioè, che dici Dybala è il prossimo Messi? Sì, è possibile, diciamo che come caratteristiche mi sembra che siano sicuramente più simili a quelle di Messi e non a quelle di Cristiano Ronaldo, che ha anche una struttura fisica completamente differente. E a livello di talento quanto siamo distanti? Cioè, quanto è una bestemmia? Io so che sono attaccabilissimo come sempre, ma anche quando dico che io non vedo... non riesco a emozionarmi in maniera incredibile quando vedo le giocate di Cristiano Ronaldo, mi emoziono quando vedo certe giocate di Messi, quindi credo che il talento di Dybala sia un talento che si avvicina a quello di Messi. Apollineo e dionisiaco, il senso del bello e del sublime. Spesso le categorie della bellezza hanno però delle articolazioni un po' diverse. Io sono più per Cristiano, per esempio, ma ti capisco perfettamente. Credo che in Messi ci sia sicuramente più arte pura rispetto a Cristiano Ronaldo. Però a me piace, ma è un gusto puramente estetico quando l'accelerazione, la velocità, la potenza si combina con la tecnica, quindi mi piace un po' più quell'idea di calcio. Detto questo, Messi però, è potente, però, agile e veloce. Io ti ha ragione Timo, dai, l'emozione è soggettivo, mi emoziona il gioco che dici tu visto nella squadra, Pier, quando è la squadra che si muove in velocità. A me il calcio, per citare la tua fortunatissima tradizione, il tiki-taka non mi emoziona particolarmente. Anche a me. Mi emoziona Messi in quel contesto, mi emoziona meno Cristiano Ronaldo con le sue straordinarie progressioni, mi emozionano le squadre che giocano in progressione, che con tre passaggi arrivano in porta. Sono due cose un po' diverse. A me Rooney, vi posso dire, il primo Rooney mi faceva impazzire, cioè quel calcio lì, quello United. A un livello più basso di entrambi, però univa un po' entrambe le cose, perché va a grande velocità e guizzi. Certo. No? Allora, vi faccio sentire Allegri ancora oggi, perché oggi è tornato ancora, incredibile, è tornato a parlare sul suo futuro, perché Allegri ha questa condanna qui, sta dominando il campionato, probabilmente lo vincerà. Gli chiedono. Ma dopo ne parliamo. Allegri oggi è dovuto tornare a misurarsi sul suo futuro. Siamo dei professionisti, hai ragione Spalletti, siamo dei professionisti. L'importante è quando si lavora in un posto, si lavori con grande serietà e con grande rispetto verso i tifosi, verso la società, verso i giornalisti. Quindi poi dopo può capitare di andare da una parte all'altra. Ora sono alla Juventus e sto bene alla Juventus, quindi vediamo cosa succederà in futuro. La mette sempre lì, vediamo cosa succederà in futuro. Ma ha ragione, ragazzi, ha ragione. E oggi ha detto anche delle cose su Spalletti, secondo me, di assoluto buonsenso. E francamente non faccio fatica anche a aggiungere delle cose. Insomma, o uno decide di fare come fece Capello qualche anno fa, dicendo non andrò mai alla Juve perché non mi piace, perché non mi interessa. Ed era una frase in quel momento lì, evidentemente pensata, perché poi non credo che Capello stesse dicendo scientemente una bugia. Credo che in quel momento realmente non fosse intrigato da quella prospettiva. Però poi oppure c'è andato, è sincero, poi però chiaro, c'è andato. Quindi voglio dire, dice, gli vogliamo bene ovunque, ugualmente a Capello come grandissimo allenatore, però è chiaro che una piccola bugia agli atti è rimasta, no? E invece secondo me Allegri e Spalletti da questo punto di vista sono molto più, non voglio dire onesti, è una parola grossa, ma insomma molto più sinceri e molto più prudenti, perché le strade sono infinite. E poi sul discorso di Spalletti, che in qualche modo si lega a questo di Allegri, c'è anche il fatto che gli è stata fatta una di quelle domande dove andresti mai un giorno alla Juve? E tu che devi dire? Andrei no, mai un ti, giorno ti chiudi, alla CNN? Che te devo dire? Ti dico tu che ci andresti alla CNN? Non è nei miei progetti, ma mai dire mai nella vita. Ti mossi, tu andresti a dirigere il Corriere dello Sport? Sono degli amici che lo dicono già, lasciamo perdere. Vedi come becco la notizia. Cioè, credo che questo faccia parte della vita delle persone. È ovvio che il calcio ha dei valori perché grazie a Dio è una grande passione popolare, quindi un trasferimento da una società a una rivale viene visto come un tradimento. Se io cambio azienda o Capuano cambia azienda o Timossi cambia azienda, non è un tradimento. Quindi è ovvio che è una fattispecie un po' particolare, però secondo me poi alla fine questa è un'ipotesi. Ormai siamo nel mondo del calcio professionistico, non c'è niente di male. Tanto no, più c'è niente per... di male. Però mi fai chiedere a Timo, che ha scritto anche un articolo su credo calciomercato.com, su calciomercato.com, sì. Cioè, ma Allegri ha qualche motivo o no per essere un po' nervoso? L'abbiamo sentito prima all'inizio dire anche: no, io al mercato non chiedo niente, piuttosto porto sui ragazzi, certo, della primavera, che insomma fa un sì, po' no, effetto, detto dall'allenatore della Juventus. Guarda, a me ha molto sorpreso questo pezzo, le reazioni a questo pezzo su calciomercato.com, perché insomma sono state reazioni anche un po' così sottovoce, ma un po' scomposte, probabilmente non tutti hanno gradito. Ma io credo che quando Allegri, ascoltavamo prima, dice: io sto bene alla Juventus, sia vero, sia la verità, però è un allenatore vincente in questo momento, che ha voglia sicuramente di altre esperienze, e qui è partito, non è la Juventus che ha pensato di poter fare a meno di Allegri. Allegri pensa che, perché fa parte delle cose della vita, tutti noi abbiamo cambiato società, lavoro, città e chissà cos'altro, e dice: beh, posso provare, è stimolato l'idea di provare un'avventura in qualche altra squadra, in qualche altra piazza, probabilmente in qualche altra nazione. Questa cosa non è stata presa benissimo sicuramente dalla Juventus. Cosa può spingere Allegri a questo pensiero? Il fatto che si dice: vabbè, ma non stai vincendo abbastanza, perché questa vincerai l'ennesimo scudetto, ma questa squadra ha speso più di 90 milioni per comprarti un attaccante straordinario, e quindi è scontato, non c'è niente di questa vittoria, dovresti semmai vincere la Champions League. E beh, io credo che invece Allegri, portando la squadra in Champions League, in finale Champions League, due stagioni fa, abbia fatto un miracolo, e credo che quest'anno, e penso che questo sia in parte anche il pensiero, anzi sicuramente il pensiero di Allegri, non sia questa squadra attrezzata per arrivare tra le prime quattro, o comunque forse tra le prime quattro sì, ma non in finale e per vincere la Champions League. Questo credo che sia un problema che nasce anche dal mercato della Juventus, che è stato da un certo punto di vista fantastico, perché porti via alle squadre che hanno cercato di essere le tue rivali nelle ultime stagioni, cioè al Napoli e alla Roma, due giocatori fondamentali come Higuain e Pjanic, però non perdi Pogba e non trovi sull'esterno un giocatore che abbia le caratteristiche, il peso di Pogba. Quest'anno giochi con Sturaro, che è un ottimo giocatore, anche un mio conterraneo, quindi insomma, che ha intelligente e potrà migliorare, ma che non è un giocatore che insomma, si inserisca tra i migliori 11. Cioè, in mezzo alla Juve di oggi è meno forte di quella Juve là. Sì, è meno forte della Juve. E forse anche a mio avviso, e forse credo che sia questo in parte anche il pensiero di Allegri, perché quest'anno la Juve è titolare. Nella Juve di quest'anno Sturaro è titolare, non lo era nella Juventus di un anno fa, dove ha sostituito per lungo tempo Khedira, perché Khedira ha un fisico insomma con qualche problema in questo momento, però è meno forte. Ragazzi, il centrocampo di Berlino ve lo ricordate, no? Sì, Pogba, Vidal, Pirlo, Marchisio, Pogba. Dal centrocampo di Berlino, con Pogba, con Vidal, con Pirlo, a quello dell'anno scorso, a quello di quest'anno, secondo me c'è una, secondo me, credo anche secondo Allegri, c'è una lenta flessione, è minima in parte rispetto soprattutto all'anno scorso, però è una flessione. E allora Allegri dice: beh, però queste cose qui forse ricordatevele, società. Il giorno in cui si faranno i bilanci. Abbiamo il traffico, grazie Giampiero. Ciao ragazzi, grazie a voi. Grazie Giampiero Timossi. C'è chi plaude, ma arrivano messaggi, finalmente qualcuno che ragiona sulla Juve inferiore all'anno scorso. Non so se sia così, però a metà campo un ragionamento si può fare. C'è il traffico, inferiore, siamo in ritardo, no. Torniamo subito, aspetta. Tutti convocati. Tutti convocati. Ma se si aprissero le possibilità, lei andrebbe mai alla Juventus? Che domandina facile. Ora mi coglie di sorpresa, però io faccio questo come lavoro, sono un professionista. Non vedo perché ci metta la Juventus e basta, ci poteva mettere la Fiorentina, l'Inter, il Milan. Io faccio questo come lavoro. Se continuerò ad allenare, vado da tutte le parti. È inutile che mi risponda lei, lei non è dentro la sala stampa. Questo fatto che mi rispondete da Milano quando io parlo con giornalisti di Roma mi fa impazzire, perché bisogna rendersi conto di quello che è il quotidiano lì sul posto prima di rispondermi dall'altra parte del mondo, ecco. Buonasera mister. Dopo che l'hanno detto ieri non si presenta nessuno. Ma come mai? Proveremo a cercare di farle qualche domanda noi da Genova, magari. Non è la stessa. Eccolo. Uno. Risultato giusto. Che tutti i giorni prova a buttare a pellare ogni osa, eccolo. Adesso poi le passo. Gli è andata malancoci. Beh, allora se c'è qualche polemica tra romanisti, lascio lo spazio al collega, allora. Questo è il riassunto delle 48 ore tra sabato e domenica di Luciano Spalletti. Intanto c'è chi ricorda che Sturaro era titolare al Bernabeu nella finale dei Champions League del 2015. No, ma poi io Sturaro no, è un ottimo giocatore. Lo stavo dicendo, per me la Juve non è più debole. Però a centrocampo il discorso la Juve ha fatto. La Juve ha perso un grande giocatore come Pogba e prima ne ha perso un altro per raggiunti i limiti di età come Pirlo e ha però guadagnato tantissimo davanti. Prima con un talento incredibile come Dybala e poi con il miglior giocatore del campionato per distacco che è Higuain, quindi credo che sia abbastanza logico, no? Quando fai un investimento da 90 milioni in entrata e da 90 milioni in uscita è ovvio che da una parte hai un bonus, da una parte hai un malus, sicuramente a centrocampo qualcosa la Juve ha perso e sicuramente davanti qualcosa di molto importante l'ha guadagnato. Abbiamo convocato Giancarlo Dotto per farci spiegare che cos'ha Spalletti. Dotto, buon pomeriggio. Ciao ragazzi, come stai? Ciao, bene, voi tutto bene? Sì, Luigi, bene. C'è una simpatica temperatura intorno ai meno 14 gradi. Cioè. Ma non è vero, anzi fra un po' nevica qui. Ma io so, Milano, ma io sono Terrone, quindi alla fine qua ha messo Invece tanto per inferire, voglio dire che a Roma c'è un clima così mite oggi. Grazie, sei cioè, squisito. Ci sono 3 gradi. Sì. No, a Roma oggi secondo me siamo 7, 8, 10? Ma no, comunque sì, più o meno 5, 4, 5, ma insomma, buttare via 4, 5. Insomma, non si butta via niente di questi periodi. Che cosa ha Spalletti che abbiamo sentito in questo blob tra sabato e domenica, insomma, prendersela col mondo? Spalletti ha, intanto sono completamente e totalmente dalla parte sua, bisogna un po' distinguere. Il problema di Spalletti è che qualche volta, quando si lascia prendere un po' della passione, perde un po' la misura, confonde il bersaglio, l'oggetto, e quindi questo è un po' il problema. Io ho avuto la fortuna di condividere gran parte della mia vita con un uomo, un genio, che aveva insomma molte cose, molte polemiche frontali con il mondo della scrittura, della stampa, che si chiamava Carmelo Bene. Insomma, Spalletti mette in luce un problema vero, reale, insomma, che è quello del comportamento di molta stampa romana. Io ho letto un comunicato all'ordine dei giornalisti che dice la stampa romana come si fa a toccare perché si muove con lealtà, sempre alla ricerca dell'obiettività dell'informazione. Beh, non è così, semplicemente ridicolo, non è così. Quindi Spalletti è intanto un uomo ammirevole per la personalità con cui fronteggia una situazione spesso complicata. Tipo anche quella domanda sulla Juve, per esempio. Però quella è una domanda che è stata fatta anche ad altri, poi ognuno sceglie come rispondere. Posso dire una cosa? Non mettiamo da romano, non mettiamo il limitatore alle domande. La dico da romano. Vai. In qualche modo anche innamorato della bellezza quasi letteraria e romantica che c'è sponda Roma e sponda Lazio, a Roma, anche a Napoli, città nelle quali si vive e si parla di calcio tutto l'anno, 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno. Il giorno in cui si capirà che è un grande valore per la Roma avere un allenatore che potrebbe andare in una rivale, si farà un passo avanti. Perché è normale che Spalletti, che è un grande allenatore e che sta in una grande società, un giorno possa andare in un'altra società rivale, come è normale che Allegri, che 2 anni fa poteva finire alla Roma, 3 anni fa poteva finire alla Roma, possa finire un giorno alla Roma, tanto per fare un discorso. Cioè, significa appartenere a un'elite di società di un certo livello, non c'è nessun complesso di inferiorità. Poi, se uno preferisce la risposta invece di facciata, ipocrita, del io sto da questa parte e di là non ci andrò mai, però poi rischia di trovarsi con Capello, con la Mazda, e sai quanto voglio bene e quanto stimo Capello, che ha fatto il professionista, però quella roba lì l'aveva detta, perché non lo so perché l'avesse detta, sta di fatto che non è successa, perché alla Juve c'è andato e ha anche vinto la Juve, al netto ovviamente poi. Pierluigi ha detto una cosa assolutamente perfetta. Voglio aggiungere che comunque io apprezzo molto tutto il mito di Mourinho, al di là della sua capacità istrionica di essere al centro della scena, è anche un mito costruito sul fatto che lui non è mai stato suddito della stampa, della comunicazione, dei media e tantomeno delle domande. Allora, se una domanda del genere, io non dico di mettere un freno o una censura alle domande, per carità, si può ospitare qualunque domanda, anche la più idiota. Ma è chiaro che questa domanda era una domanda tendenziosa, che era mirata esclusivamente a costruire un titolo, e a costruire poi la gazzarra che puntualmente c'è stata, perché ormai le gazzarre si fanno con una tecnica molto semplice, ordinaria, e sono puntuali e matematiche. Soltanto io quello che rimprovero a Spalletti è qualche volta di cadere in queste trappole. Sarebbe bastato dire: guarda, io non questa tua domanda io non rispondo, datela tu la risposta, perché tu sai bene che qualunque cosa io dirò sarà contro di me. Questa, per esempio. Però dico che Spalletti, insomma, Dotto lo conosce benissimo, secondo me alcune scelte dal punto di vista mediatico in questi mesi le ha fatte anche per provare a dare una scossa all'ambiente. Cioè, secondo me, di fondo lui ha il sottile gusto della provocazione, ha il sottile gusto di dire: io sono un professionista e potrei andarci alla Juve. Cioè, secondo me è troppo sgamato per non capire che quella risposta comunque avrebbe alimentato quel tipo di discorso. Poi sul resto sono perfettamente d'accordo. Noi siamo in una società dove uno viene colpevolizzato per una parola, dove si estrapola una parola, la si allarga, gli si dà un senso, un significato che non ha. Spalletti non ha detto che vuole andare alla Juve. Spalletti, no. Non ha detto che vuole andare alla Juve, ha detto che nella vita non si può mai dire. Sono trappole mediocri che bisogna fronteggiare in modo virile, direi, insomma, cosa che Spalletti fa. Io direi che con Pierluigi ci siamo divisi lo Spalletti in due. Lui vede lo Spalletti stratega e ha ragione, cioè quello che in questo modo cerca anche di dare una scossa all'ambiente, però c'è anche, credimi, c'è anche lo Spalletti emotivamente colpito da atteggiamenti della stampa romana che, tu sai bene, per Luigi, sì, sì, in qualche caso sono stati veramente imperdonabili, cioè scelte fatte a tavolino di bastonare un signore che sta facendo il suo lavoro benissimo, con grande passione, una persona che persino esorbita quelle che sono le sfere naturali, no, di un tecnico. Ora, chi si faccia pure la domanda sulla Juve è l'ennesima trappola, e lui si è comportato bene, secondo me doveva comportarsi peggio, cioè meglio, cioè essere ancora più feroce, cioè, di una domanda non, che era non chiaramente non ti rispondo, appunto. Vi devo fermare perché c'è il GR. Ringrazio Giancarlo Dotto. Ciao, grazie, ciao, Giancarlo. Ciao, ciao, ciao. Alla prossima, 800 24 00 24. Torniamo fra 3 minuti. Tutti convocati. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. State ascoltando un programma offerto da... Tutti fanno pronostici, non tutti nel posto giusto. Scommetti nelle agenzie SNAI o su SNAI.it. SNAI, the playmakers. Tutti convocati. Abbiamo ancora 23 minuti esattamente. 800 24 00 24... Tanto aperto il dibattito sulle domande scomode, subdole, sceme, insomma, che si è aperto con Giancarlo Dotto a proposito di Spalletti. Roberto da Catania, Roberto. Buongiorno a tutti e complimenti doverosi per la trasmissione. Volevo semplicemente dire la mia sul discorso del mondiale a 40 e rotte squadre, 48 squadre, 48 squadre. Io sono d'accordo per quanto concerne l'aspetto legato alla, diciamo, alla tifoseria, alla chance che possono avere piccoli paesi di mostrare giocatori o altre cose. L'unica cosa che mi lascia un po' perplesso è il livello arbitrale. Abbiamo visto comunque situazioni abbastanza difficili in alcuni paesi in passato e magari ci sono nazioni dove il livello arbitrale può essere buono, ma non magari ai livelli delle nazioni dove il calcio è un business, dove ci sono di mezzo degli interessi, dove c'è un livello, una velocità di gioco, una cosa diversa, ecco. Quindi magari potrebbero essersi, ecco, delle difficoltà per per questo tipo di arbitri. Ecco, tutto magari questo. Per il 2026 le abbiamo anche risolte, Roberto. Speriamo. Perché il 2026 non è proprio dopodomani. No, io credo che non sia questo il tema, credo che non sia questo il problema. Roberto Baggio favorevole al mondiale a 48 squadre, ha detto sarà più spettacolare, chissà se ugualmente equilibrato, ma più posso spettacolare. Dire una cosa, a me sembra che Infantino abbia goda di stampa migliore del suo precedente, no? Del suo predecessore. Mi sembra così. Ho visto anche Maradona ieri, mi ha fatto un po' effetto, mi ha fatto piacere, perché poi vedere Maradona giocare con i nostri amici, con Demetrio, con Francesco Toldo, cioè noi vogliamo bene a quella gente lì, no? Da semplici e umili appassionati ci siamo innamorati di quella generazione di campioni, e quindi l'idea che si possano divertire a giocare nella neve in un giorno di gennaio a Zurigo, Maradona, Van Basten, Costa Curta, Albertini, Trezeguet, cioè questo ci fa solo gioia, no? ci regala piacere. Però ecco, mi sembra che Infantino questa categoria dei calciatori se la stia un po' coccolando, e siccome poi sappiamo che conta anche l'immagine della vita, no? Probabilmente adesso c'è una benevolenza nei confronti delle sue proposte che prima non c'era. Mimmo da Modena. Mimmo, buonasera. Eccoci. Buon anno innanzitutto, anche se già è quasi finito. Vabbè. Come quasi finito? È 10 gennaio. Tu sei un precursore, ho capito te che sei un precursore. Tu con la veste stai già a dicembre. Tu okay. Stai già... Allora, okay, Mimmo, che fai per le vacanze natalizie, Mimmo? Che fai? Ok, Max, ti ho riconosciuto. Max? Sei il tarocco di... Chi è Max? Di Pardo. Max? Ah, Max Giusti? Allora ti chi subito, ieri non sera ti chi raga, mi sono divertito. Dici tutto. Niente, volevo dire solo il fatto di collimare le 48 squadre per il Mondiale 2026. Vabbè, sì. Su, fra 9 anni... Però poi già c'è il problema del Qatar, che già devono spostare i campionati, devono spostare le cose. Come fanno poi a fare tutte le partite, a organizzare, che poi in mezzo ci sono anche gli europei, non so, la Coppa d'Africa, Coppa America, come si fa? Io quello che non ho capito bene. Se lo chiedono in tanti, l'abbiamo detto prima, c'è chi porterà la FIFA in tribunale, la Lega Spagnola, perché questa cosa qui evidentemente toglierà altro spazio. Anche se Infantino dice di no, toglierà altro spazio ai club, che poi sono quelli che pagano, certo, i giocatori, quindi tengono in piedi tutta la baracca, e ai quali si chiede, forse anche giustamente, di fare sacrifici, di alleggerire i calendari, di non andare a fare le tournée, di far riposare i giocatori, dargli le ferie, di fare la preparazione. Insomma, io credo che le due cose insieme non possano stare, e ancor più del Mondiale a 48. A me stupisce la UEFA che fa un torneo ufficiale al posto delle amichevoli dal 2018, quindi non ci saranno più nemmeno le amichevoli. Quella è incredibile. E insomma, e nessuno dice niente, o meglio, tanti dicono, però poi insomma, le soluzioni sono queste. Poi c'è il calciomercato. Lui si è preso del tempo per decidere se andare via o rimanere, e in questo momento qui, visto che la situazione è questa, è giusto che prenda il tempo per fare le riflessioni, e poi dopo vedremo, tanto c'è un fino al 31 gennaio. Quindi. È stata una piacevole serata in cui abbiamo parlato di calcio, in cui purtroppo ci ha fatto rivedere troppe volte il gol di Bacca di ieri sera nel televisore che avevamo davanti. Adesso ci siamo presi 24 ore, entro domani sera decidiamo se farlo. Ci sono varie situazioni, diritto di riscatto eventuale, se sì o se no, quindi tante cose che poi chiaramente non dipendono solo da chi era seduto a questo tavolo. Quindi. Per Belotti, vabbè, insomma, Belotti, abbiamo messo una clausola a 100 milioni, quindi è evidente che non prendiamo in considerazione nessuna offerta al di sotto, e poi non è che prendiamo in considerazione nel momento in cui ci fosse un'offerta a 100, lì non saremmo nella posizione di poter rifiutare, perché la clausola, se il giocatore è d'accordo, ti comporta un'automatica uscita del giocatore, ma insomma credo che l'abbiamo posizionata a un livello talmente elevato che non credo che arriveranno, e per cui insomma direi che Belotti me lo tengo stretto. Ho conosciuto i ragazzi, ho conosciuto il gruppo, ho rivisto Massimo, l'allenatore, che conosco molto bene, è stata subito una buonissima impressione anche per il gruppo e per il centro sportivo e tutto, quindi sono contento, sono molto motivato, se no non avrei fatto questa scelta, e molto convinto che possiamo fare un girone di ritorno alla grande. Questi erano Allegri su Evra, Giulini su Storari, Gabriel, che si fa, eh? Si fa proprio in questi minuti lo scambio di prestiti tra Milan e Cagliari, poi Cairo su Belotti, Gilardino che è andato al Pescara. Saluto Sandro Sabatini, ciao Sandro. Come va? Ciao, buon pomeriggio, ciao Pier, buon pomeriggio a tutti. Come stai? Per una volta come ce l'abbiamo qui e non al telefono. Bell'uomo. Bell'uomo, vorrei che me lo dicesse qualche bella donna, anzi, lo so, però bello amico, come se... intanto io lo dico, ci sarà qualche ascoltatrice che magari non guarda tutte le puntate di calciomercato e non sa cosa si perde, sì, e penserà che tu sia un bell'uomo, cosa che fra l'altro sei, occhio ceruleo, eh? Tanto alla radio non si vede. Ma la cos'è, uno sport radio, questo? Io alla radio peso 72 kg. perché la radio dimagrisce. Oh, ma che scherzi, no, c'ho anche l'addominale scolpito. Senti, è un che po' come il bianco, è un po' come sentiamo, il bianco. Faccio sentire il rumore della tartaruga. Senti, rumore fortissimo. Senti un po', c'è qualcosa oggi di un po' meno sonnecchioso sul mercato dopo i botti di inizio anno, Sandro? Guarda, l'hai detto te prima, la notizia di oggi è lo scambio di secondi o terzi portieri tra Milano e Cagliari, Storari, cioè non è il massimo. Quindi possiamo chiudere qui? No, teniamo aperto perché Gagliardini arriva a Milano stasera e alla fine abituiamoci a chiamarlo Mister 30 milioni Gagliardini, perché costa così tanto, ma non c'è assolutamente ironia in quello che sto dicendo, nel prezzo che sto riferendo, perché secondo me è un ragazzo molto in gamba, un centrocampista molto forte e può diventare anche a breve uno dei centrocampisti della nazionale italiana, eh? Questo è un ottimo prospetto, quindi insomma quelli che sembrano adesso tanti soldi, forse esagerati, magari col tempo potrebbero diventare venire raccontati come un ottimo investimento, quelli che spende l'Inter, i milioni che spende l'Inter per Gagliardini. Intanto segnano un passaggio, cioè, non solo l'Inter, c'è anche l'asta su un altro baby come Orsolini. Cioè, i club italiani, io credo scottati da Verratti, che poi andò via per 2-3 milioni in più, non per segno, delle cifre, hanno capito che conviene spendere. È un segno di sanità mentale, diciamo, dai. Tornare a investire su giocatori giovani, di prospettiva. È vero che Gagliardini, insomma, 18 partite, 30 milioni fa un certo effetto, ovviamente. Però è vero pure che il talento mi sembra indiscutibile, no? Su Orsolini pure ci sono tracce abbastanza chiare, abbastanza logiche. Sandro? Sì, sono ragazzi giovani, sono italiani. All'improvviso è cambiata la moda, ecco, perché fino a pochi mesi fa vedevamo tutti che si orientavano all'estero. Qui invece magari qualche piccolo esempio utile per il mercato italiano c'è, e quindi fanno bene. Io la cavalco molto volentieri questa moda, chiamiamola così, perché comunque sono contento di immaginare nel mondiale a 48 squadre anche 48 giovani italiani già selezionabili adesso. Così abbracciamo i due argomenti di giornata. Sì, e così li mettiamo insieme. Te ne do un terzo, lo prendo da un messaggio di Raffaele di Treviso, che dice: ora che Gabbiadini si è sbloccato viene ceduto, non capisco questa logica. Gabbiadini stasera gioca, per quello che conta, Coppa Italia contro lo Spezia, e poi va via, credo siamo davvero ai saluti. Sì, siamo i saluti, però io credo che i tifosi abbiano una grande caratteristica, la passione che li rende unici, ma anche il fatto di essere assolutamente incontentabili. Scarsa memoria, eh? Anche con poca memoria, perché capito, Gabbiadini va via, sì, perché dopo tutti gli stessi tifosi, magari quello anche che ha scritto, che invocavano l'acquisto di un centravanti, perché Gabbiadini non era centravanti, adesso il centravanti è arrivato, è Paoletti, e Gabbiadini anziché stare a sedere in panchina, che fa anche freddo, preferisce giustamente andare altrove. È molto più lenta di quello che si possa credere però la gestione dei Gabbiadini, perché De Laurentiis è uno che nelle trattative non si arrende facilmente, e quindi ci sarà da scontare parecchi milioni secondo me sui 20 richiesti dal Napoli. Non è immediata la gestione dei Gabbiadini, non per caso gioca ancora titolare stasera. C'è un amico che scrive che non è moda, ci sono giocatori bravi italiani che prima non c'erano, e quindi adesso vale investire quei soldi, è questione di un ciclo. Poi è vero, l'Atalanta è il paradosso, Pier, è che 6 mesi fa stavamo piangendo per la fine del calcio italiano proprio a livello di nazionale, perché non c'era il ricambio, c'era una generazione che stava chiudendo. Io non piangevo. Tanti lo facevano. Vabbè, ho capito. Ma tu sei lungimirante. No, io non sono lungimirante, io sono forse troppo ottimista in certi momenti. Io penso che il peggio sia alle spalle, e lo vedo secondo me anche dei risultati delle squadre italiane in giro in Europa. Certamente noi oggi non abbiamo la forza. L'esempio te lo dà Gabbiadini, no? Gabbiadini è un giocatore che a 20 milioni parte, e non c'è oggi una società italiana della dimensione delle squadre inglesi e tedesche che sono interessate, cioè una squadra italiana di metà classifica che possa permettersi un investimento da 20 milioni di euro per Gabbiadini. cioè Ghebedini può finire allo Schalke 04, può finire in Inghilterra in squadre di livello medio, ma l'Udinese piuttosto che l'Atalanta, piuttosto che il Genoa non se lo possono permettere o non se lo vogliono permettere, insomma. Quindi questo in qualche modo ti racconta il fatto che i budget sono diversi da altre parti. Ma dal punto di vista il calcio è una delle cose più democratiche del mondo. Ogni volta che un bambino prende a calci qualcosa per strada, lì rinasce la storia del calcio. Andiamo con il poeta. Cioè, il calcio, soprattutto nei paesi tradizionali come il nostro, vive delle fasi e quindi ci sono delle esurrezioni. Questo è un momento nuovamente positivo perché c'è un vivaio top, che è quello dell'Atalanta, che sta portando 5-6 giocatori molto importanti, e ce ne sono altri in giro comunque che si fanno vedere, per cui secondo me il peggio è alle spalle. Prima di chiudere con Sandro Sabatini volevo chiedergli se da qui a stasera, l'ora in cui andrà in onda, Kalinic avrà deciso se diventare cinese o restare fiorentino. Ma questo non lo so, forse lo sa soltanto Kalinic, secondo me non lo sa neanche Paolo Sosa, perché Paolo Sosa poi ha trovato il modo per polemizzare ancora con i giornalisti fiorentini o toscani. Questa è una moda. Sì, questa è una moda. Anche questa comunque è una moda che va e viene, ma alla fine sono qui, va sempre di moda questa moda, scusate il gioco di parole. E Kalinic, poi posso dire una cosa un po' politicamente scorretta, secondo me la Fiorentina fa il tifo anche perché Kalinic accetti, perché comunque rivendere Kalinic a oltre 40 milioni, 45, 50, quelli che saranno, è venderlo bene, ma bene è dir poco, Pier, è venderlo benissimo, venderlo, ecco, anche forse la Fiorentina è l'unica eccezione al discorso che facevo prima per Gabbiadini, anche se non credo che cerchi un giocatore con quelle caratteristiche, però ecco, se cedesse uno come Kalinic per 45-50 milioni, a quel punto i 20 milioni per Gabbiadini potrebbe anche tirarli fuori, ma è veramente una contingenza. Io sono d'accordo con te, penso che non sia un discorso politicamente scorretto, credo che sia un discorso di assoluto buonsenso nel mercato di oggi. Se la migliore squadra italiana come la Juve vende giustamente Pogba perché gli arriva un'offerta folle e fa una valutazione di quel tipo, figuriamoci se la Fiorentina per 45-50 milioni non può almeno considerare un'ipotesi di questo tipo e magari in qualche modo anche tifarla, anche perché con quei 45 milioni magari prendi 2-3 giocatori con i quali ti rifai la squadra. Quindi è quello però il problema, che comunque i tifosi della Fiorentina si aspettano di vedere, anche di leggere tutto sommato serenamente il comunicato della cessione di Kalinic. Cioè, di sicuro non faranno le barricate come fecero per Baggio. Con Baggio proprio oggi che è tornato a Firenze, tra l'altro, ecco, questo viene in mente. Perfetta forma. Al PT Uomo. I tifosi della Fiorentina, come se fosse una chat di mercato, capito? Alla notifica della cessione di... Voglio gli acquisti, certo. Direi, insomma. È legittimo. Ci mancherebbe altro. Come lo vedi il ritorno di Antognoni, scusa? Ma guarda, io anche qui faccio, non sono tanto politicamente corretto, per me le bandiere sono quelle che i tifosi una volta sventolavano in curva per accompagnare, capito, l'entrata in campo delle squadre, e poi alle bandiere nelle società, io penso che abbiano una funzione, servono per fare le foto, e con questo non nulla togliere ai vari Antognoni, Zanetti, Nedved, eccetera, grandi simboli, anche esperti di calcio con i quali magari i presidenti, direttori sportivi e anche allenatori possono confrontarsi, ma comunque il loro contributo è infinitesimale rispetto al contributo che davano quando erano calciatori. Quindi vale anche per quelli che Infantino sta portando alla FIFA? Maradona, Van Basten, Boban... Con un'eccezione, proprio quello che hai nominato, Boban, perché io ho avuto il piacere di conoscerlo fin da quando era ragazzo. Io lo dico, anche se non ci sentiamo più al telefono, sarà 4-5 anni almeno, ma io raramente ho conosciuto, oltre che calciatore, un uomo con la sua intelligenza e la sua personalità. Confermo. Veramente una intelligenza fuori dal comune. Sì, perché è un'intelligenza unita alla personalità di dire sempre quello che pensa, fregandosene abbastanza delle conseguenze, quindi questo è un elemento di grande valore, e poi un'apertura mentale. Io ho in mente dei drink sulla spiaggia di Barra, parlando di tutto, dalla guerra al calcio, ad argomenti ancora più, diciamo, faceti, però veramente un'intelligenza abbagliante quella di Boban. Detto questo, mente delle bottigliette d'acqua minerale, d'acqua naturale, di plastica prese dal contenitore, come dalla macchinetta, capito? In qualche redazione, quindi mi già rosico, capito? Ma voi, la spiaggia di barra, la spiaggia di barra, no, Però è meglio delle macchinette di dove si è trovato. Comunque, Salento è molto meglio di barra. La settimana scorsa non c'è partita, va bene. Ciao Sandro, buon lavoro da stasera. Ciao, ovviamente non parliamo di barra la zona di Napoli dove c'è Anna Trieste. No, i barra. Parliamo di barra, barra di Tijuca. Esatto. Chi abbiamo adesso? Salutiamo Sabatini. Adesso non lo so, adesso aspetta, fa Giorgio De Luca. Lo dico alla tartaruga. Prima però ti devo fare sentire tre cose. Ieri abbiamo fatto le tre voci della settimana. Oggi, edizione speciale, ne facciamo altre tre. Vai. Allora, la prima che ti faccio sentire è il saluto tra Sarri e Ferrero. Ai microfoni di Premium, Sarri passava, Ferrero passava, c'era lì Sarri. Scusate, sta passando Massimo Ferrero e qui vediamo in diretta. Ecco l'abbraccio in diretta. No, ho detto che sei un grande allenatore, perché c'è da dire niente, proprio sei un maestro. C'è una bella squadra, che non c'ha bisogno del 12° in campo. E ce l'hai anche te un grande allenatore. Allora, tra due grandi, ma che potenza qua c'è io, eh? Oggi è andato da noi, dai, prego. Mi dispiace più fa gol a qualcun altro al 90°. Ma i gol ci sono tutti, va tutto bene, però gli occhi dei bambini non vanno bene. Ciao. Poi ti faccio sentire Allegri il cinese. E poi le chiedo, visto tutte queste serie cinesi, qualche allenatore, Mihajlovic l'ultimo, ha detto che è stato cercato, lei ha ricevuto telefonate dall'Oriente? Allora, parliamo di Asamoah, parliamo della Cina. La Cina ha detto, lasciamo perdere la Cina, pensiamo alla partita di domani. Una bella. Il cinese? poi la migliore di tutti, che ieri ci è sfuggita colpevolmente, e cioè il giallo di Marassi. La puzza di Marassi. Ma sai che facciamo? Che facciamo? Aspetta, domani proviamo a fare una cosa, volevo fare gli stessi attività. Cerchiamo il colpevole. No, non cerchiamo. Riproduciamo. Domani facciamo. No. Domani ricordamelo, perché io ho la memoria che dura 4 minuti. Sì. Quindi alle 3. Allora, domani facciamo, però intanto domani lo facciamo una bella sentire. Cosa. Rizzoli che cerca il colpevole. Madonna mia, Dani! Mamma mia! Che è stato, ragazzi? Gli scatenata da Incolano, abbiamo sentito nel tunnel che sta riportare i giocatori della Roma in campo. Chi è stato? No, domani svegliamo il mistero. So che non è stato De Rossi. So che non è stato De Rossi, che veniva invece considerato fra i papabili. Sicuramente non è stato De Rossi. Però non so chi è stato. Domani però facciamo una cosa carina. Aspetta che lo chiediamo un altro insider famoso, Alessandro Alciato. Ciao Alessandro. Ciao, buongiorno. Sei andato alla Cacio e Pepe a Zurigo? Sì. No, non sono andato perché me l'hai consigliato tu. Sei stato il primo da evitare. Guarda che è straordinario, perché il Cacio e Pepe originale, cioè con la sorella. Con la sorella di lui, adesso non vuoi fare pubblicità di ristorante Milano, però questo qui è quello di Zurigo, è quello originale. Con la sorella del signor Caccio. Fa delle puntarelle con le alici che sono la fine del mondo. Guarda, volevamo parlare di una cosa seria, ci sono rimasti 2 minuti. Vai. Quindi come facciamo? Noi abbiamo iniziato parlando del mondiale a 48 squadre. Io avevo convocato Alessandro Alciato per farmi spiegare cos'altro cambiava, perché poi tra supplementari che aboliscono, rigori dopo il 90°... Insomma, in pentola bolliva anche qualcos'altro. Io non so, nel frattempo Infantino ha cominciato a parlare. Magari si sa qualcosa di più, Alessandro. Sta dicendo qualcosa, ma non troppo. Nel senso, mancando 9 anni ci sarà tempo per mettere a posto i dettagli. Intanto ti dico cosa non cambia, ed è la prima cosa che Infantino ha detto in conferenza stampa. Non cambiano i giorni sul quale verrà spalmato il Mondiale, perché anche a 48 squadre nel 2026 si giocherà in 32 giorni. Non cambia il numero massimo di partite, cioè quello che giocherà la squadra che vincerà e saranno 7. Non cambierà il numero degli stadi in cui si giocherà e saranno 12 anche nel 2026. Potrebbe cambiare il fatto che non si giochi più in un paese solo, ma in più nazioni. Ad esempio è molto forte già oggi la voglia di candidarsi di Stati Uniti, Canada e Messico insieme. E questo insomma già da qualche giorno si sa e già... si sono mossi a livello politico da quei tre paesi. Si sa che insomma il mondiale così vale almeno 600 milioni in più rispetto a quello 32 squadre, e si sa che i primi a lamentarsi sono stati i club dell'ECA, quindi i principali club europei, dicendo che insomma nella prima riunione parleranno di questo mondiale a 48, ma loro sono contrari. Facile immaginare perché, perché più squadre coinvolte vuol dire più giocatori coinvolti dei maggiori club e quindi più rischio di infortuni per quei giocatori. Diciamo che i dettagli tecnici verranno messi a posto nei prossimi anni, ne mancano 9, insomma di tempo ce n'è, però è già iniziata la lotta molto forte, una lotta furibonda fra chi avrebbe voluto ancora una volta il mondiale a 32 e chi invece sta dalla parte del mondiale a 48 dal 2026. Dalla Spagna addirittura hanno detto che faranno delle azioni legali, hanno paragonato Infantino a Blatter, ma le azioni legali non serviranno a nulla perché dal 2026 il mondiale si giocherà a 48 squadre. Sì, che paragonare Infantino a Blatter equivale alla fatua massima oggi. Sì. Però ribadisco la mia percezione, a me tra l'altro Infantino mi sta molto simpatico, sì. Secondo me si sta muovendo bene dal punto di vista delle PR, nel senso che si è portato tutta una serie di giocatori importanti, da Boban a Maradona. Vedere Maradona ieri nel quartier, ma un po' emozionato, un po' mi ha fatto anche strano, perché insomma è il simbolo dell'antipotere che, no? Che invece si siede legittimamente, ci mancherebbe altro, insomma, nei palazzi che è della FIFA, che ha iniziato la sua vera seconda carriera. Può essere, ci dobbiamo però fermare qui. Grazie ad Alessandro Alciato, prossima volta ci prendiamo un po' più di spazio. Grazie Alessandro. Grazie a voi. Cacio e pepe, cacio e pepe. Cacio e pepe. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia. Domani risolveremo il giallo della puzza di Marassi. Promesso.